Futura 1993. Oggi sono solo io, sono Francesca, qui sulle 103.1 FM su Radio Città Fugico all'interno del palinsesto Fugico Factory. L'abbiamo detto l'altra volta e quindi quest'anno andiamo in onda il martedì alle ore 16.30. Mi raccomando, non vi sbagliate, perché la scorsa settimana ci sono arrivati messaggi di mercoledì dicendo no, ma non siete in onda. Cioè, quando noi lì abbiamo fatto una capatanta, no? Come si dice, dicendo che abbiamo cambiato giorno. Quindi lo ribadisco ancora, siamo di martedì, lo spammeremo ancora durante, insomma, la settimana. E questa che avete sentito all'inizio era la sigla che la settimana scorsa avete scelto proprio voi. È stato infatti molto figo, un'interazione che ripeteremo sicuramente. Abbiamo selezionato, infatti, mi sembra fossero 3-4 brani, e poi la sigla l'abbiamo lasciata nelle mani dell'Instagram. Veniamo da un weekend molto intenso, perché ci segue infatti saprà che domenica siamo tornati a casa di Fugico e anche casa di Futura. Siamo tornati al Dopa Hostel per uno dei nostri sofa concert, e questa volta avevamo una doppietta clamorosa, cioè Valli e Puerto Nico. Quindi per chi non c'era, abbiamo approfittato di questo spazio radiofonico per fare qualche altra domanda anche a Nicolò, quindi vi racconterà sicuramente quello che ieri ha raccontato a noi. Adesso ci ascoltiamo un suo pezzo e poi in onda con noi ci sarà proprio Puerto Nico. Ho certi pensieri che mi portano giù, persone che nella mia vita non vedo più. Questa canzone mi sembra un déjà vu. Ci ho provato tante volte a farla meglio, che quasi mi pento se sto meglio. Il cuore pompa forte un sentimento che non riconosco, sai, ci metto troppo. Cerco solo di non diventare un mostro. Sono un bambino che cerca di diventare uomo. Ci arrivo dopo perché penso troppo e agisco poco. Ma l'amore è un verbo, non una parola. Ti farò vedere che siamo una cosa sola. Non rifarò lo stesso errore due volte. Ho dato il cuore a gente che non crede in me e l'hanno usato come un posacenere. Milano dorme, fuori piove. Al terzo piano metti in rima il mio dolore. Prego che domani sia un giorno migliore. Prego che domani sia. Milano dorme, fuori piove. Al terzo piano metti in rima il mio dolore. Prego che domani sia un giorno migliore. Prego che domani sia. Fare bene solo per farmi del bene. Ho il vizio di cadere in basso quando mi conviene. La carne è debole, sì, ma l'anima è di ferro. Siamo animali con un sentimento in mezzo al petto. Mi aggrappo alle parole, non so fare altro. C'è chi pensa che lo faccio perché sono un bastardo, no. Perché non ho coraggio, no, no, no, no. Milano dorme, fuori piove. Al terzo piano metti in rima il mio dolore. Prego che domani sia un giorno migliore. Prego che domani sia. Milano dorme, fuori piove. Al terzo piano metti in rima il mio dolore. Prego che domani sia un giorno migliore. Prego che domani sia. Al terzo piano metti in rima il mio dolore. Prego che domani sia un giorno migliore. Prego che domani sia. Eccomi. Ciao, ciao Nico. Ciao, Fra. Ciao, oggi sono da sola, è un tête à tête. Ok, va bene. Benvenuto in onda. E io, guarda, questo weekend non ci molliamo. voglio che le cose che ci hai raccontato tu ieri le racconti anche ai nostri ascoltatori. E quindi dici un po' innanzitutto com'è stato suonare in chiave acustica il tuo EP? Beh, è stato sicuramente molto emozionante, perché era la prima volta anche che mi studio chitarra e voce da solo, e quindi ti dirò intimo, sicuramente molto intimo, una sensazione anche molto bella, perché essendo l'EP nato in cameretta praticamente, ritrovarsi a suonarlo in un contesto casalingo rende proprio più schizia al lavoro che ho fatto, quindi mi è piaciuto molto. Ti sei sentito un po' nella tua cameretta dove autoproduci un po' tutto? sì, un po' sì. Ma guarda, io ho fatto un giro sui tuoi social e ho visto una foto di una camera. Dimmi che veramente è da lì che parte qualcosa. Cioè, raccontami un po'. Sì. È quello? È da lì, è dalla cameretta, da una buona vista, possibilmente una giornata di sole e non troppi impegni nella giornata. Ecco. E verso le 11 di mattina inizia a succedere qualcosa, quindi dovrebbe essere quello. C'era anche Chris Martin di Coldplay che diceva che lui scriveva le canzoni attorno alle 11 di mattina. Mamma mia. È un orario come proficuo, si dice? Buono. Ma quindi scusa. Ma hai un tuo rituale? Cioè, mi sembra di aver capito che hai un po' le tue fisse, no? I tuoi spazi, i tuoi orari, eccetera, eccetera. Ma dimmi un rituale, lo so che ce l'hai, o prima del live o prima di scrivere. Guarda, prima ne avevo molti, molti di più rispetto ad ora, dove cioè, nel tempo comunque mi sento più confident di me stesso, quindi riesco anche a essere un po' più sereno quando approccio determinate cose, determinati lavori. Mm-hmm. Sicuramente, guarda, un primo è un primo rituale non è proprio fisico, ma è tanto mentale, cioè riuscire a compiere quelle azioni mentali per mettersi in un buon stato di mente pulita per riuscire a lavorare bene. Okay. Poi magari invece ci sono quelle giornate che ti alzi e ti butti direttamente sul computer, magari ti fai colazione pure mezz'ora dopo perché c'hai un'idea che tiene subito e segui una modalità magari di lavoro completamente diversa. Dico, i rituali più che essere appunto veri e propri sono più di mettermi proprio nella condizione emotiva anche migliore per essere ispirato durante la giornata. Quindi magari ci sono delle volte che l'ispirazione arriva il pomeriggio, la sera un pochino sul tardi o la mattina presto, e tu devi essere lì come paziente con la canna da pesca a aspettare che arrivi. Guarda, io ho fatto un sacco caso a quello che hai detto su tuo padre. Insomma, c'è un qualcosa di tuo padre anche in una traccia, no? Raccontavi che ti aveva suggerito di aggiungere i violini, se non ricordo male. Sì, ma in Milano Donne, sì. E, cioè, come ti lasci permeare da ciò che ti circonda? Cioè, questo sicuramente non è un input qualsiasi, no? Immagino che non è che insomma ascolti tutti come ascolti tuo padre, però immagino che tu ti lasci influenzare anche da altri, quindi raccontami un po'. Sì. Guarda, nel tempo ho dovuto un po' imparare a distinguere un po' i feedback, perché questo è sicuramente un tema molto importante per quanto riguarda la creatività e sicuramente la produzione musicale. Sì. Quindi ho cercato sempre di più quelle persone che fossero in grado di darmi quei feedback che mi distruggevano talmente, erano talmente fastidiosi che erano veri. Quindi tutto quello, cioè quei feedback che arrivano e magari non mi muovono riflessioni postume o sul momento, molto probabilmente sono quelle cose, le posso anche ascoltare, però molto probabilmente sono quelle cose che non sono forti, non sono proprio quelle cose che dovrei seguire. Quelli che invece mi infastidiscono, per cui anche mi prendo male, sono esattamente invece quei feedback che voglio, è un autolesionismo positivo, perché sono quelli che ti fanno crescere. Appunto, poi quella volta è successo con mio padre, che sono uscito in quel modo, e effettivamente ci aveva ragione, perché ci avevo pensato pure io, ma non avevo avuto il coraggio di dire niente in un determinato strumento, lui me l'ha detto, e è come se mi avesse confermato un mio dubbio, e ho seguito quel feeling là, e ci ha avuto ragione. Quindi in un certo senso sono anche un po' della filosofia che alle volte lascio che gli altri finiscano le cose che inizio, Però cioè, mi piace questa cosa qui, perché poi rende quello che faccio organico e partecipativo con gli amici e comunque gli affetti che fanno parte della mia vita. Assolutamente sì, quindi ti lasci influenzare, ma tu da quando fai musica hai totalmente cambiato rotta, nel senso che il tuo primo approccio alla musica è stato di gruppo, quindi sì. Facevi tutto un altro genere e sicuramente essendo in più era anche diverso tutto quanto. Poi hai dato totalmente una virata. Qual è stata la cosa più difficile, la cosa che ti ha fatto veramente sospirare mentre hai cambiato approccio? Il fatto che riuscivo a dire senza filtri, cioè il cambio di lingua sostanzialmente, perché io sono partito scrivendo in inglese con gli amici in saletta, quindi band da liceo, la classica proprio storia. e dopo la cosa è diventata molto più seria, ho capito che era proprio la mia passione e quindi da lì l'ho iniziato a prendere anche più seriamente. E quindi quando ti trovi a dover dire appunto determinate cose anche in italiano, inizia pure un po' una ricerca interiore per capire un po' quali sono i temi che tu vuoi affrontare effettivamente. Quindi ho iniziato praticamente a fare delle canzoni d'amore, adesso invece mi sono spostato molto più su dei temi introspettivi, direi anche quasi un po' esistenzialisti per certi versi. E quindi però è stata una cosa, una necessità quasi personale mia, proprio di approccio alla vita, che è cambiato. Quindi doveva cambiare anche la tua musica, seguito. Per forza sì. Ma c'è un tema che vorresti trattare ma ancora non hai trovato insomma il modo di farlo? Beh, ce ne sono mille in realtà, perché in testa ho sempre da 700.000 idee, poi alla fine ne cade tipo una dal cielo e quella poi, e magari poi dico che è quella e mi concentro. Ce ne sono veramente molti. Sicuramente ritornare sul tema dell'amore, non in maniera banale ma in maniera molto più lucida, mm-hmm. è un tema, cioè riuscire a non rendere il tema dell'amore un tema pop, un tema smielato, cioè, ma invece una riflessione di un altro tipo. Quello sicuramente sì, è una sfida, perché è molto iconico come tema e vorrei un po' sfondare questa cosa qui invece, questa istituzionalità. Ecco, vorresti dare una lettura un po' più personale sì, e meno fiabesca. Sì, sicuramente sì, però guarda, per adesso sono veramente alle prese con me stesso, quindi magari la prossima cosa di cui voglio parlare arriva subito domani dopo la chiamata, quindi è sempre tutto così, tutto fluido. Ma noi sappiamo che hai cominciato veramente tantissimi anni fa, non vorrei sbagliare, ma forse sono tipo 8, 9, 10 anni che fai musica? Sì, ecco. Sì. E cosa provavi tu appena hai cominciato e credi che oggi uno della tua stessa età provi le stesse cose, nel senso l'ambiente è cambiato, la musica è cambiata, secondo te può affrontare più difficoltà oppure può essere agevolato da questa diffusione estrema di musica italiana? Domanda importante questa. Sicuramente quando io ho iniziato c'era un contesto anche a Roma completamente diverso da quello che è adesso, mm-hmm. quindi era emo punk, pop punk in inglese, c'erano tastieroni, bassi distorti, era anche il periodo del grunge, che erano ritornati gli anni zero con gli About Wayne, quindi c'è dove l'indie era in inglese, sì. Quindi era ancora una cosa dove, cioè, in Italia si faceva musica in inglese e per la nicchia, sì. Ok? Anche un po' per addetti ai lavori, quindi comunque tu eri conosciuto, ma era una cerchia ristretta magari di quella nicchia, di quella città, che magari era connessa con un'altra piccolissima nicchia. Adesso invece che la discografia è permeata un po' di più anche nelle camere degli artisti, perché adesso è molto più veloce il link che un artista ha, anche se sfonda con la major o comunque con queste cose qua. Secondo me ha cambiato il modo di percepire proprio la musica e le emozioni stesse che ti dà questa cosa qua, perché io mi ricordo che per me era una cosa che mi faceva dormire la notte, per quanto stavo in fissa proprio, quindi cioè era proprio una cosa che mi teneva sveglio, ma perché era bellissima, quindi io davo il 100%, cioè senza aspettarmi minimamente, cioè non sapendo nemmeno che ci si potesse effettivamente guadagnare da quella cosa lì, certo. Era completamente random. Adesso invece anche per me è cambiata questa sensazione qua, perché ovviamente poi piano piano che cresci le cose, non voglio dire che, perché è brutto dirlo, che si corrompono, perché non è questo il termine giusto, però sicuramente quando poi, cioè, esci nel mondo reale, devi farlo diventare il tuo mestiere, vuoi farlo diventare il tuo mestiere, cioè te la devi sudare tanto, cioè non sì. È più solo essere un artista fortissimo con le canzoni, ci sono anche tanti altri aspetti che diventano fattori, circostanze, situazioni, posti, cioè tutto poi diverso. No, perché io, guarda, sono allibita, vedo sempre di più questi diciottenni, quindi che hanno 10 anni in meno di noi, ma anche meno in realtà, vedo anche 16enni, con insomma, che ci sanno fare come non credevo si potesse fare a 16 anni, no? Poi in realtà, insomma, tutti cominciano presto, è solo che, come dici tu, forse prima lo si faceva in maniera così tanto totalizzante che non... Che non gli altri... c'erano nemmeno... Non si... Non è una percezione, no. Esatto, e non c'erano i social soprattutto, perché adesso io dalla mia cameretta posso proiettarmi ovunque, capito? Prima non lo potevo fare, forse se prima avessimo avuto Instagram attivo come era oggi, tutto il resto attivo come era oggi, era diverso magari. Sì, quindi ci si sarebbe linkati tutti quanti in maniera molto molto diversa. E in realtà io ho molto da imparare dalla nuova generazione, cioè dalle nuove leve, da questo punto di vista, perché poi sono nuove leve ma già sono big alcuni, quindi c'è, cioè, da imparare, cioè, da persone molto più piccole, e questa secondo me è la figata più grossa che c'è adesso. Guarda, sono contenta di sentirtelo dire, perché noi siamo coetanei, però tante volte non è facile accettare che una persona con 10 anni meno di te sia più skillato di te, no? Però è vero, dici strabene. Anch'io mi guardo intorno e mi faccio permeare da questi ragazzini troppo bravi, ecco. Quindi... no, sì, c'hanno proprio il fuoco dentro, quindi, cioè, che devi fare? Cioè, come fai a negare il loro talento? È possibile, capito? Saresti o sei invidioso... Oppure un po' stupido, non lo so, cioè, comunque spaccano. Assolutamente. Allora, sì. Ognuno ha sempre i suoi gusti, però ci sono delle cose che sono oggettive. Ma Nico, ti lascio, ma prima dici il tuo ultimo ascolto su Spotify, l'ha già detto ieri, ma dicelo, certo. Così lo mandiamo in onda anche qui. Il mio ultimo ascolto è stato Travis Scott, Houston Fornication, se l'ho detta bene, non la so nemmeno pronunciare bene, e l'altro era l'ultimo singolo di Nico. Ok. Va bene, non fa niente, sorvoliamo, è andata. Va bene, grazie Nico, è andata. Grazie a te. Ciao. Buona serata. Altrettanto. Ciao. I might need me some ventilation, a little vacation, used to fornication. Mind redefine new renovations. Space cool, back out of the space station. Float around town, do that on the daily. Of a chase, yeah, crib built like a prison where that bitch is gated. Yeah, spending all my time up there getting faded. Yeah, handing out the E to the entertainment. Yeah, you know on this side it's popping and it's dangerous. Riding through the clouds, we going through the vapors. I'm just trying to get the paper, staying out the papers. It ain't easily done, it ain't easy. Pop a seal like it's Chris, make it look breezy. Wedding bands on my fist, it is freezing. Throw the bands, get a kiss, did she leave me? I just want the piece, still Lambo over Mercedes. Just put the Astro World playground to play with my baby. Had a few pop singles, anyone could be in your mama. Had some real conversations with my nigga Bill about Congress. We at the fest, come and link per request. Send a pin, drop it in GPS. Seeing flashes, oh no no, that's my neck. I've been living paranoid, watch your step. Ain't never freeing up and never let y'all, man. We always forget but don't forget easily. Cut my phone off so they can never reach me. Life is just a maze going through my phases. I might need me some ventilation, a little vacation, used to fornication. Mind redefine new renovations. Space cool, back out of the space station. If it rise on the east, land on the west, we gon' make that shit pop, bust it for a check. Call the plays, link the squad, we gon' make it cash. Yeah, nobody can press me but the press. Nobody can check me when it's chess. Oh, not for real. They come in at my neck like Gillette. I'm hard to catch, that's the butterfly effect. Yeah. I've been locked in for so long, I done got dressed. Took the girl off the network and up the net. I stopped watches for the game, protect the set. Had to move up off my block, it took finesse. Yeah, just keep dropping them bombs, you should probably say your breath. Yeah, they gon' play the steel, why you tryna funk the flex? Yeah, I'ma dogs in my wheel, they gon' ride through to the death. Yeah, elevator up the hill, we ain't never take the steps. Ain't never freeing up and never let y'all, man. We always forget, but don't forget easily. Cut my phone off so they can never reach me. Life is just a maze going through my phases. I might need me some ventilation, a little vacation, used to fornication. Mind redefine new renovations. Space cool, back out of the space station. If it rise on the east, land on the west, we gon' make that shit pop, bust it for a check. Call the plays, link the squad, we gon' make it cash. Grazie ancora Nicolò, io ricordo i nostri recapiti per suonare anche voi se volete al Dopo Hostel. Noi siamo contentissimi quando ci scrivete, noi aspettiamo delle proposte, quindi vi ricordo classefutura@gmail.com, ma in realtà anche su Facebook e Instagram, dove ci trovate impezzateci perché vi aspettiamo. Una piccola considerazione sul finire di questa puntata, non so cosa stia accadendo nelle vostre città, ma qui a Milano sta avvenendo il panico. Allora sicuramente per chi segue i Ferragnez saprà di cosa parlo, mi riferisco a quei selfie improponibili che si è sparato Fedez forse per 2 mesi con una mascherina da tipo cyberpunk, giappo, non so, su Instagram. Ecco, Milano più o meno in questi giorni è esattamente così. Gente che in tram dice tipo ma cazzo al sushi, quindi non ci andiamo più perché c'è il coronavirus, cioè cose assurde. Poi tu vai a spiegare che in realtà il sushi con la Cina non c'entra assolutamente niente, però è un po' così, quindi sfruttare l'ondata del fashion un po' proposto da questi influencer per in realtà nascondere la propria ipocondria. Questa cosa potrei farla anch'io in realtà, perché per chi mi conosce sa che leggermente anch'io sono ipocondriaca, però prima di vedermi con una mascherina alla Fedez vi giuro che passerà veramente molto molto tempo. Detto questo, vi ricordo che l'appuntamento è martedì prossimo, quindi sempre 16:30. Scriveteci anche per dirci chi volete sentire ai microfoni di Radio Città Fugico, anche questo insomma è un consiglio ben accetto. Io sono Francesca, noi siamo Futura e quindi l'appuntamento appunto è settimana prossima.